Ciao, sono uno spaghetto di riso integrale ricco di spirulina. Cerco una buona forchetta con cui arrotolarmi sfrenatamente. Con gli spaghetti di riso integrale Felicia, il benessere non è mai stato così invitante. Felicia, fatti di un'altra pasta. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Davide Gatti e Simone Pizzi. Buonasera carissimi amici di Runtime Radio e soprattutto buonasera carissimi amici di Quando eravamo futuro, una trasmissione della quale si erano perse le memorie, le tracce, non si avevano più notizie, ma in realtà alla fine la trasmissione c'è ancora, esiste, soltanto che ha fatto una lieve pausa per ragioni, non lo sappiamo. Assortite quali... miste. Esatto, mix di ragioni, vi alzo perché siete un po' bassini. Comunque, Carlo Sant'Agostino, buonasera a tutti. Tutto bene, Carlo Sant'Agostino? Tutto bene. Siamo di nuovo qua. E come hai giustamente detto, ci siamo presi una pausina, ma ci sta. Ogni tanto si riposa, si dorme, si fa la pennichella. Magari. E poi si torna. Magari si dorme. Però, comunque, i video di archeologia informatica mi dicono che non escono più. I podcast, non esce più niente. Troppo lavoro. Sto periodo. Sono usciti un sacco di video fatti tutti con Davide Gatti. Esatto, quelli sono i video di Davide Gatti, che è un po' diverso. Davide Gatti! È vero, sono diversi, ma siamo sempre noi, siamo sempre il gruppo. Sono diversi ma uguali. Esatto. Diversi ma uguali, con la stessa pancia, lo stesso peso, non dimagriamo, siamo sempre noi. Davide Gatti, Survival Hacking, che è arrivato al Silver Button, giusto? No, ancora no. Stiamo calmi. Siamo lì. Anche se un video sempre fatto in collaborazione con l'archeologia informatica ha superato le 100.000 views e passa, giusto Davide? Sì, e continua ad andare, lui va, è partito. Lui va per la sua strada, questa è una cosa veramente video molto sulla storia della PI6040 dell'Olivetti. Esatto. E la preparazione. Esatto, la sua riparazione, c'è la parte storica di Carlo e quindi è un video dove si parla sia di tecnica che di storia e c'è un mix che è un format che stiamo un po' adottando su diversi altri video, sugli arcade. Mm-hmm. E quando si parla di qualche console, di qualche computer magari che sempre passa per le mie mani per essere un po' sistemato o visionato, c'è sempre poi anche la parte storica grazie a archeologia informatica e quindi questo mix insomma ci consente di far viaggiare in parallelo un po' le nostre missioni. Vabbè, ma oramai hai fatti di ne, fra un po' non ci rivolgi più la parola, vabbè dai, fa niente, non ti chiamano. Con chi sto parlando? Scusi, lei chi è? Tra un po' ti chiamano da Google direttamente. Fare dicono... di ne con YouTube è una contraddizione nei termini. Sì, diciamo che non è così facile, però insomma... Dai. Comunque, questa è una puntata nella quale io dirò molto poco, perché il mio livello esperienziale, lo so, io già l'ho detto, il mio rapporto con i fumetti in generale è praticamente scarso per ragioni oggettive, anche, forse perché non ho mai empatizzato, però devo dire che di Topolini me ne sono passati tanti sotto le mani, e poi vi racconterò perché, cioè che cosa mi hanno, che qual è il mio ricordo del perché me le ricordo alcune storie di Topolino, cioè in realtà non me le ricordo, cioè se tu mi dici ti ricordi un tipo di una storia non me la ricordo, però mi ricordo le storie, le leggevo perché alla fine erano insomma, tipo dei, veramente erano delle storie con un capo, una coda, insomma, fatte bene, e alcune erano proprio fighe, tra l'altro a volte li chiamavano, che ne so, Indiana Jones o cose del genere. Però prima di dare la parola a Carlo Sant'Agostino, che poi in realtà è colui che ha voluto questo episodio, perché proprio lui e Topolino c'è un rapporto incredibile, insomma, il nostro io anche Carlo ha le orecchie Topolino, porto, sì. Vi faccio ascoltare un pezzo, non ve lo faccio ascoltare tutto perché dura più di 3 minuti, però vi faccio ascoltare un documento storico importante, perché Topolino è bello, noi gli vogliamo bene, insomma, in qualche maniera è legato alla nostra infanzia, ma come sapete non si può parlare di qualsiasi cosa correlata a Disney che non abbia un qualcosa di oscuro dentro di sé. Attenzione, atracca, cuciati pesi, acqua e a corda, volate l'ancua, volate l'ancua nel furor della battaglia. Poi cantando avanzeremo, un cedischia la mitraglia, sul nemico balzeremo. Sergente, sono sbarcati tutti? Sì, comandante, sono tutti allegri, nessuno ammalato, cantano come fringuelli inneggiando la patria. Benissimo! Chi è quel coloniale così allegro che fa ridere tutta la truppa? È il più bel tipo di militare che sia sbarcato nell'Africa orientale. Eccolo che viene da questa parte. Oh, compagni, nati cuori, vinge uniti noi sarre. Mostreremo a questi morri, come vince noi sapre. Al, come vi chiamate? È Topolino, capito ragazzi? Topolino, colonialista in Abissinia. Questa è la storia che immagino Carlo parlerà dopo, no? No, assolutamente no. No. Proprio stiamo sbagliando completamente il concetto, perché in realtà noi con Topolino, voi pensate al personaggio, esatto. In realtà noi con Topolino oggi intenderemo il fumetto che è uscito in Italia, che con Topolino vero e proprio, cioè col personaggio, veramente ben poco a che fare, perché in realtà poi il successo del fumetto lo ha fatto con le storie dei paperi, quindi principalmente di Paperino, di Zio Paperone, eccetera, e non di Topolino. Io questa cosa, esatto, io questa cosa non l'ho mai, cioè non l'ho mai capita, nel senso che in effetti è vero, è così, cioè si chiama Topolino, però poi alla fine senza Paperino, Zio Paperone, qui qua, insomma, probabilmente. Sì, sì, no, ma perché in realtà Topolino è il nome della testata, del fumetto, come dire Linus. Sì, sì, certo, no? Certo, certo. Il fumetto Linus, poi c'era. Ma perché secondo me l'intenzione del fatto che Topolino fosse comunque poi il protagonista, no? Cioè, comunque è l'investigatore, è quello intelligente, è quello figo. Ma no, allora semplicemente lo è. Poi alla fine era lo stronzo. Perché negli anni 40 è nata così la testata, perché derivava appunto da quell'utilizzo poi di Topolino, cioè era il personaggio famoso degli anni 40, essendo nata in quegli anni la testata si è chiamata così, ma poi in realtà, certo, si è voluta in un modo completamente differente. No, però permettimi soltanto di dire questa cosa, che come abbiamo detto non c'entra niente né col tema della puntata, perché noi parleremo di Topolino come appunto testata, quindi come albo. Intanto salutiamo, esatto, tutti quelli che sono in chat, Walter, vedo Debora, oddio, la chat mi è scorsa, poi dopo vi saluto tutti. Però diciamo che questo documento è un documento importante, anche se diciamo non c'entra niente, però l'ho comunque voluto inserire perché è una cosa che a me mi lasciò sconvolto, veramente sconvolto, perché senza il beneplacito della Disney, chiaramente, cioè nel senso la Disney si smarcò da questa cosa, durante il periodo del fascismo, voi sapete, abbiamo già parlato nelle altre puntate, i fumetti venivano gestiti totalmente in Italia, sì, anche Superman, Nembo Kid, esatto, Nembo Kid, Superman con l'esagono senza la S, no, insomma tutta la serie, la propaganda, esatto, perfetto, quindi era tutta una ragione politica, però associare poi Topolino, no, che parla, che va a fare la guerra agli abissini, li chiama i mori, perché loro non si dicevano né neri né negri, si diceva i mori, no? Ma io dopo vi linko in chat il link di YouTube, perché poi a un certo punto dicono delle cose, cioè per fare capire un attimo, perché noi ce lo siamo dimenticato, cioè questi andavano in Abissinia a ammazzare i mori e con i mori faranno le pelli per i divani per le loro fidanzate, cioè vabbè, ok, cioè così, tanto per propaganda, esatto, una propaganda, questi sono crimini contro l'umanità, poi dopo vabbè, sì, comunque dai, parlando di quegli anni, cioè, e invece torniamo a parlare delle cose belle di Topolino, quello tutto colorato l'idea della puntata un po' colorato. Si chiama Topolino perché si chiama Topolino il settimanale, che è un po' il cioè, per me Topolino nella mia infanzia rappresentava il fumetto, cioè c'era, come dire, c'era Topolino e poi c'erano gli altri fumetti, come se fosse una cosa a parte, come se fosse l'emblema del fumetto, cioè il fumetto era Topolino, poi c'erano anche gli altri fumetti, sì, io leggevo anche gli altri fumetti, però il fumetto era Topolino, capito? Cioè sembrava quasi che fosse un po' il portabandiera di tutto il genere del fumetto in generale. Era una mia impressione, ma in realtà se guardiamo le vendite, soprattutto negli anni 70 e 80, era particolarmente vero, cioè vendeva almeno 10 volte più del suo prossimo concorrente più vicino praticamente rispetto agli altri, sì, agli altri periodici a fumetti. C'è da dire che quei periodi, quando io ero proprio piccolo bambino e parlo degli anni, fine anni 60, inizio anni 70, più o meno per la mia fascia d'età era quasi l'unico fumetto, ce n'erano da tanti, no, c'era il giornalino della, c'era il Corriere dei Piccoli, sì. C'era con la Pimpa, c'era, e anche di questi ne abbiamo parlato, ma io non l'ho neanche mai visto, non l'ho mai visto in vita mia, neanche, non ho mai avuto mai letto la Pimpa in vita mia, per me non esisteva, okay, tu infatti avrai visto solo Topolino proprio perché era il più famoso, no, di tutti, no, Davide non ha letto né il Corriere dei Piccoli né la Pimpa, perché stava lì con quei suoi 25 centimetri di pellicola. No, io ero proprio grande, era distratto, una citazione su una puntata passata. Esatto, era un futuro che avrebbe colto solo i fedelissimi ascoltatori. Vabbè, ma d'altronde noi facciamo citazioni delle noi stessi, quindi però diciamo che Topolino come nome, ma in realtà proprio come figura iconica, è il simbolo della Disney, no? Indipendentemente dal fatto che sia o no il protagonista o sia simpatico, sì, o no, sì, è visivamente il punto di riferimento. Però qui scrivono in chat Topolino amico delle guardie, che insomma in realtà sì, lui era un po' il puzza sotto il naso, un po' il borghese della situazione, quando infatti stava antipatico a tutti, invece Paperino lo adoravano quelli tutti, che no? Leggevano il fumetto di Topolino, cioè il giornale, il settimanale, che storie leggi, quelle di Paperino, chi è che non ti piace Topolino, ma questo è normale, cioè era così, era proprio Topolino è bravo, bello, buono, intelligente eccetera, quindi sta sulle balle. Però Paperino, le storie facevano anche, erano tristi le storie di Topolino, cioè non era guardabile, ma se le proprio leggi in realtà, se no tu non le leggevi proprio, va bene, esatto, ci sta, perché non piacevano. In realtà se le leggi anche lì c'erano delle storie belle e delle storie brutte. È ovvio che Topolino partiva per partito preso già antipatico, perché essendo quello perfettino non aveva poi quella pill che invece Paperino, che si incazzava sfigato perdente, sì, ci riconoscevamo di più in Paperino, ci si riconosceva, certo, ci si riconosce di più. La sindrome dei Fantozzi, poi, no? Esatto, e quindi questo ci sta. Detto questo, ripeto, noi dobbiamo parlare Topolino come contenitore, che è un po' quello che è, cioè Topolino non inteso come personaggio di Topolino, ma il fumetto. Cioè io ritorno a dire, veramente, per quando io ero piccolo Topolino era il fumetto, non solo, poi alla puntata ci tengo particolarmente, perché per me leggere i fumetti e in particolare leggere Topolino mi ricorda i periodi più belli della mia infanzia, cioè non più belli, la felicità. Avete presente quando voi avete un ricordo e avete un ricordo felice, no? Di quando, del passato. Ecco, il mio ricordo felice, che quando lo penso sono contento ancora adesso, quando me lo ricordo e mi ritorna buon umore e felicità, è proprio quando io leggevo Topolino. Ed era proprio un'ambientazione particolare, cioè proprio un'immagine nella mia mente di quando ero piccolo. Che devo mettere il violino triste? Se vuoi metti il violino triste, però in realtà non è triste, è proprio l'esatto opposto. Cioè, quando ripenso a quei momenti, veramente sono ancora contento adesso. Per me era il momento, come dire, il paradiso terrestre. Ero io al pomeriggio, magari, che avevo finito i compiti, quindi non c'era più niente da fare, di doveri, insomma, della scuola, eccetera. Andavo in giardino, io avevo giardino, abitavo a Settimo Milanese, che Settimo Milanese è in provincia di Milano, era un paese, ancora un paese, però non era la città, quindi avevamo una casa col giardino, dietro c'erano i campi, ci sono ancora i campi di grano turco, ci sono, c'è la stalla, c'è il contadino con le mucche, là, cioè sono proprio vita di paese, quindi non stiamo parlando di città col traffico, eccetera, un'ambientazione molto diversa da quella dove viveva Davide, per dire, per raccontare. E quindi io andavo in giardino, nel mio giardino c'era il dondolo è, avete presente il dondolo, no? Come no? Certo. Quello che c'è al mare. Esatto. Cioè, scusa Carlo, ma io e te ci abbiamo la stessa età, tu mi chiedi a me se io c'ho presente il dondolo, cioè. Vabbè, ragazzi, lo chiedo, non mo, si mi sa direi che a Milano si chiamava, a Roma non si chiamava dondolo, si chiamava invece dondolo, si chiamava sdrubalo, che può essere benissimo, è già capitato, no? Sì, sì, sì, a voglia, voglia lasone. E niente, c'era il dondolo sotto la betulla, mi ricordo, ho proprio l'immagine visiva, io sul dondolo con la mia pila di topolini, sdraiato sul dondolo, perché ci stavo in, adesso non ci starei mai più in orizzontale, all'epoca ero piccolo, quindi ci stavo in orizzontale sdraiato sul dondolo con la pila di topolini da leggere e l'ombra della betulla, mi ricordo il sole che passava tra le, c'è proprio l'immagine del sole tra le foglie e l'ombra della betulla. Comunque Carlo, scusa, si vuole, la betulla è una pianta, non so a Roma come la chiamate. La chiamo la zibambu. Ah, ok. E poi mangiavo, mi ricordo anche la merenda che facevo, perché era tutto l'insieme, cioè era il momento magico, finalmente da dedicare alla lettura di topolino, quindi della mia bella pila alta di topolini, perché io andavo a recuperare i topolini vecchi, perché siccome mi piaceva, spesso a quel tempo tu andavi nelle edicole e nelle edicole trovavi anche l'angolo con i fumetti vecchi. I bagarini c'erano. C'erano anche i bagarini, c'era proprio un commercio di vecchi numeri di topolino, e io andavo a recuperare i vecchi numeri di Topolino perché mi piacevano le storie, quindi volevo leggerle. E la merenda, questo è un altro ricordo che non c'entra niente con la storia, però voglio raccontarlo lo stesso perché fa parte di quel momento, di quel momento di felicità. Era una cosa strana perché di solito c'era il pane con la Nutella, l'abbiamo mangiato tutti, credo, da piccoli. Sì, e però da noi si diceva il pane con la cioccolata. Addirittura, vedi, questa non si diceva Nutella quando ero ragazzino io, anche se era la Nutella, no? Sì, perché c'erano poi le Nutelle. No, era sempre Nutella, perché poi le Nutelle tarocche sono arrivate piano piano, non è che però si diceva, vuoi il panino con la cioccolata? Il panino con la cioccolata, che poi non è prima la cioccolata. E invece mio nonno un giorno mi disse, ma la Nutella, posso la Nutella, prova questo, e prese semplicemente il pane, il burro, quindi il panino con sopra il burro e lo zucchero. Ah, mia nonna me lo faceva sempre. Io l'ho assaggiato, sì, era sì, la impazzivo. Cosa più buona sì, sì, del sì. mondo. Mo perché era adesso non lo posso fare, perché sennò lo farei in continuazione. Cioè. Esatto. Pane, burro e zucchero. Sì. Guarda, il pane leggermente ammollato, appena, cioè doveva essere umido un po' il pane, col burro e poi sopra sgranellato lo zucchero. Levate. Era buonissimo. E buono che io all'epoca gli diedi nome di Nutella bianca. Da quel giorno io la chiamai il pane con la Nutella bianca, che era il burro con sullo zucchero praticamente. Comunque sempre perché storie di ordinaria chat, tipo Michela dice che lei sul dondolo ci si lanciava sempre una volta atterrata su una tartaruga, non so, cioè veramente una tartaruga. infatti vabbè, dai, comunque questo per raccontare insomma l'ambiente, cioè il ricordo della felicità. Perché Topolino in effetti come settimanale aveva delle storie, tu hai detto prima alcune scritte bene, ce n'erano alcune veramente veramente scritte bene. Innanzitutto c'è da dire che e qui parliamo un pochino di storia, poi entriamo poi nel dettaglio della puntata. Cioè, Topolino ha il settimanale che conosciamo, ha un formato particolare, se vedete, no? È tascabile, è piccolino. E in realtà i fumetti non uscivano con quel formato. Infatti negli Stati Uniti, per dire, per fare un esempio, non sono mai usciti con quel formato lì che abbiamo noi di Topolino. Il formato negli Stati Uniti era più grande, era quello dell'uomo ragno dei fumetti americani della Marvel, leggermente più grande. L'almanacco di Topolino. L'almanacco era molto più grande, esatto, per intenderci. Invece quel formato deriva da una casualità della Mondadori. La Mondadori aveva i diritti delle storie Disney, questo succedeva negli anni 40, e siccome alla fine degli anni 40 ci fu un calo generale delle vendite dell'editoria per la crisi, insomma la guerra e tutto quanto, e quindi la Disney, la Mondadori all'epoca aveva i diritti della Disney. La Disney gli avrebbe ritirato i diritti di pubblicare le storie Disney se non avesse garantito una quantità minima, insomma, di vendite, insomma, dei fumetti Disney in Italia. Topolino all'epoca usciva nel formato grande, uguale a quello americano, per intenderci, a strisce anche. La Mondadori come il vecchio Corriere dei Piccoli prima di diventasse il vecchio Corriere dei Piccoli, bravissimo. La Mondadori, per rilanciare la pubblicazione dei fumetti Disney, decise di rilanciarlo creando una nuova testata che appunto chiamò Topolino, e il formato fu scelto per una questione pratica, perché in quel periodo avevano i diritti per il Reader Digest, la versione italiana del Reader's Digest, la selezione del Reader Digest. Ricordo. Che veniva stampata dalla Mondadori e aveva quel formato tascabile, quel piccolo formato. Per fare questo redesign veniva utilizzato una macchina tipografica che era stata costruita appositamente per stampare redesign, però restava questa macchina molto costosa, restava inutilizzata tra la stampa mensile della selezione del redesign, cioè da un mese e l'altro rimaneva inutilizzata, e quindi decisero, per rilanciare le testate Disney, di fare Topolino in quel formato, il formato 12 cm x 18 esattamente. E quindi tra l'altro io di selezione ho un ricordo bellissimo, perché mia madre me lo leggeva sempre quando stava all'ospedale, so che è un po' una cosa tipo strappa lacrime, però è così, va bene, ognuno poi qua ha i suoi ricordi, quindi poi direte i vostri, per esempio legato a quel periodo e anche a quello che vi ricordate. Comunque il formato nasce proprio per un caso, per una casualità, però l'azzeccano, perché quel formato lì in Italia piaceva particolarmente, forse perché era piccolo e destinato magari ai bambini. Io mi trovavo bene a leggere Topolino in quel formato, devo dire la verità. Quando diventai più grande, che iniziai a leggere per esempio i Marvel e quelli più grandi, o comunque quando leggevo anche il Giornalino o il Corriere dei Piccoli, che erano nel classico formato rivista, facevo più fatica, no? I quotidiani non ne parliamo, prima di leggere un quotidiano sono dovuto dopo 18 anni. Io mi ci vestivo con i quotidiani, ci capivo un cazzo di come sapevo. Esatto. È vero che Topolino, l'albo di Topolino, c'aveva comunque sempre, c'aveva un formato azzeccato, devo dire la verità. Oggi uno lo dà per scontato, ma in realtà era, cioè, della giusta dimensione, lo gestivi bene, non era troppo grosso, non era troppo piccolo, si leggeva bene, quindi insomma. Esatto. Poi l'altra grande idea di Mondadori di quel periodo, vuoi la casualità, vuoi perché non c'erano abbastanza storie, insomma, che c'erano le storie degli autori americani, no? Goldfrey, Ron, Barks, eccetera, ma non erano tante, e la decisione di uscire tutte le settimane con il fumetto, dissero produciamo anche, tanto abbiamo i diritti, la Disney gli aveva rilasciato i diritti anche di pubblicare storie originali, cioè ideate, disegnate in Italia utilizzando i personaggi della Disney. E già da subito, cioè dal numero 7 di questo nuovo settimanale, appare le prime storie disegnate in Italia da autori italiani. E questa fu una grandissima, diciamo, idea, perché le storie disegnate da italiani nel mercato italiano colpivano molto di più, anche se utilizzavano un'ambientazione di fantasia che alla fine era ambientata in un mondo ispirato comunque agli Stati Uniti, perché c'erano i paper dollari, c'era Topolinia, c'era Paperopoli, eccetera, però la costruzione della storia, e gli autori italiani riuscirono a creare delle storie veramente belle, avvincenti, interessanti, crearono dei filoni, delle dinastie. Una delle prime innanzitutto fu la rivisitazione dei grandi classici con i personaggi da Disney, l'inferno dantesco fatto i personaggi della Disney. Sì, tante rivisitazioni hanno fatto. E poi autori di grande calibro, Bottaro, Romano Scarpa, tantissimi autori che veramente erano grandi autori e fecero delle storie fantastiche. Oltretutto portò l'Italia, con il successo che ebbe il settimanale negli anni, a essere il più grande produttore mondiale di fumetti Disney, tanto che la produzione italiana poi verrà esportata in tutto il mondo, tutta Europa, anche perché, Carlo, lingue. Non so se è corretto, perché non sono esperto, ma poi mi pare che noi in Italia poi abbiamo inventato anche dei personaggi che in realtà tantissimi. Nella linea Disney non esistevano. Sì, perché poi porterà negli anni a creare personaggi, in realtà i personaggi, ogni, diciamo, sezione della Disney poteva inventare dei personaggi locale, aveva questa libertà anche di inventare personaggi. Poi i personaggi inventati in Italia rimarranno per la maggior parte del tempo famosi solo in Italia. Certo. E solo alcuni poi avranno l'onore negli anni successivi di essere poi conosciuti anche a livello globale. Però diciamo che ne ha inventati veramente tanti, tra i tanti possiamo ricordare Filo Sganga, Brigitta, l'amante di zio Paperone, il più famoso di tutti è quello che hai appena detto, Paperinic. Paperinic è un inventore. Ma pure Eta Beta, non era italiano Eta Beta? No, Eta Beta già esisteva, ok. Sì, già esisteva, tantissimi personaggi esistevano già, poi sono stati riutilizzati tantissimo in Italia, però alcuni personaggi sono andati anche in Sud America, ce ne sono diversi, insomma. Però diciamo che in Italia se ne sono inventati parecchi, e il più famoso di tutti è appunto Paperinic, che nasce poi dalla versione di un altro celebre fumetto italiano che è Diabolik, quindi era quel periodo, Diabolik, Paperinic, no? Super Pippo americano. Americano. Sì, anche quello. E, comunque, dicevo, la tradizione dei creatori di storie italiane è incredibile, come anche dei disegnatori. I disegnatori italiani che si faranno le ossa poi sulla Disney Italia, che poi diventeranno disegnatori famosissimi, uno dei più grandi è Giorgio Cavazzano, ma Luciano Gatto, ce ne sono veramente anche qui un'infinità. E io mi ricordo, uno dei ricordi che ho, per esempio, è che io all'epoca, negli anni 70 e 80, non c'era scritto sulle storie di Topolino né l'autore né il disegnatore. Tu aprivi Topolino, ma non c'era scritto storia di, disegnata da. È stata una cosa che hanno aggiunto, credo, negli anni 90 o comunque alla fine degli anni 80. Come nel software, poi. Sì, all'inizio era solo Walt Disney il titolo, però tu riconoscevi il tratto, il disegno. E infatti io all'epoca mi ricordo che davo dei nomi, siccome leggevo tanto Topolino, c'erano ovviamente delle storie che mi piacevano di più anche come disegno, delle storie che mi piacevano di meno, delle storie che trovavo disegnate meglio, delle storie che trovavo disegnate peggio. E quindi davo dei, per esempio, il disegnatore, quello bravo era Cavazzano. Quando dicevo, ah, questo è quello bravo, era Giorgio Cavazzano. Un altro bravo era Luciano Gatto, che lo chiamavo il disegnatore con le goccine, perché una dei suoi tratti tipici era fare delle specie di goccioline intorno agli occhi dei personaggi, e quindi dicevo, ah, questo è il disegnatore con le goccine. Quindi, poi negli anni dopo, ovviamente diventando grande e appassionandomi anche del fumetto in generale, poi ho riconosciuto anche gli autori, gli ho dato anche un nome, però all'epoca, non avendo nessuna indicazione sul nome per me, gli davo questi soprannomi, no? Quindi andavo a cercare le storie di Cavazzano perché ne riconoscevo il tratto tipico di disegno. E non sapevo nulla degli autori, però mi rendevo conto che c'erano delle storie che erano bellissime, mi piacevano molto, e delle altre che invece erano, diciamo, trascurabili, insomma, che sono passate nel dimenticatoio. Ma alcune storie me le ricordo ancora oggi, erano talmente belle che tipo le ho lette 3-4 volte, le rileggevo anche, perché erano le storie che mi piacevano di più erano quelle con protagonista Zio Paperone e la combriccola dei paperi in generale, perché Zio Paperone aveva sempre delle storie dove c'era Zio Paperone che c'erano delle specie di canoni, tipo Archimede che fa una nuova invenzione di un qualcosa di straordinario, Zio Paperone che la commercializza, tutto bello, poi succede un disastro e quindi bisogna ritornare da capo. Oppure Zio Paperone che scopre in un paese assurdo da qualche parte nel mondo un tesoro, e allora prende tutto il paperino qui con qua e tutti quanti, e bisogna partire in missione per andare in questi territori strani a recuperare le cose più assurde. Me ne ricordo alcuni titoli, sono per esempio, c'era Zio Paperone l'acqua quietante, che è una storia scritta e disegnata da Romano Scarpa, che è l'acqua quietante, quella è una delle storie che mi ricordo, che era una specie di fonte miracolosa che rendeva calmi. Siccome Zio Paperone si incavolava, cioè c'era Paperino, si incavolava, e Zio Paperone anche l'acqua quietante lo rendeva tutti tranquilli. Oppure Zio Paperone nella terra dei tapironti crepuscolari, che era un'altra di quelle storie dove... Madonna, come fai a ricordate proprio... Le ho lette un miliardo di volte. Una delle cose più divertenti di queste storie delle missioni era che ci andavano spesso con delle macchine assurde, tipo che venivano costruite ovviamente da Archimede Pitagorico, tipo, non so, una specie di auto che aveva le ruote con sopra le scarpe che per salire le montagne, per dire, una roba del genere. Oppure un aereo che volava di notte, che era a forma di pipistrello gigante con i finestrini che si illuminavano. Vabbè, ma ce ne sono un miliardo, l'invasione dei Chikongi e molte storie anche mi ricordo che in alcuni casi, o rileggendole anni dopo, erano anche, anticipavano anche delle cose del ultimamente ho riletto una storia che parlava di quello di cui parlo spesso, cioè dei personal computer eccetera, che è incredibile se la rileggiamo adesso come anticipava alcune cose. Si parlava già di telelavoro, quindi di gente che stava a casa perché lavorava da casa col computer, di e-commerce, che non c'era né internet né niente, è una storia degli anni 80. E poi alla fine i bassotti che non potevano più andare a rubare i soldi nel deposito perché era tutto diventato elettronico, diventano praticamente degli hacker, e alla fine Zio Paperone decide di smettere tutto perché ci sono i bassotti che entrano dentro nel sistema per rubargli i soldi. Insomma, è una storia che a rileggerla adesso ha dell'incredibile, talmente era profetica in alcuni casi, come tanta letteratura di anticipazione, di fantascienza dell'epoca, che se scritta bene, se fatta bene, riusciva a anticipare il futuro in base a degli indizi su quello che succedeva nel presente. Comunque ce ne sono tante. Voi ve ne ricordate qualcuna di storia in particolare? Non dico il titolo, però no, io ti posso, poche che avete letto. Ti posso dire due cose. Una, che comunque sì, a me ti devo dire, Paperino sì, era quello che forse mi stava, perché era troppo sgangherato, però mi faceva ridere perché poi alla fine c'era questa concettualmente famiglia che era veramente completamente fuori dalla grazia di Dio, perché c'erano lui che era, vabbè, insomma, non so se era uno che si dava la fama, alla fine era un incoglionito Paperino, secondo me si faceva pure le canne. Poi c'era quel qua che erano i nipoti intelligenti, voglio dire, nel senso. E poi c'era zio Paperone che era, alla fine era uno stronzo, insomma, nel senso, ecco, questo. Però la cosa che mi piaceva, sintesi, questa, sì, esatto, per la cosa che il fumetto. No, vabbè. Dai, era uno stronzo, no, zio Paperone, dai. Alla fine io non mi ricordo se esiste una storia dove lui un po' si sia mentito di sta cosa, che poi lui Sicuramente nell'acqua tranquillante di prima avrà fatto vedere nel fumetto dei lati suoi non inesistenti. Sì, ma tanto poi dopo, certo. anche se lui poi dopo era gentile, dopo comunque si richiedeva sempre, perché lui arruspava tutto, lui ogni millesimo di centesimo era comunque qualcosa di... Poi la cosa che mi faceva impazzire era il deposito delle monete d'oro, cioè... Cioè, ci avete mai pensato da ragazzini quanto sarebbe stato figo buttasse sì. in una vasca piena di monete d'oro? Avremmo sognato di buttarsi dentro lì. Sì, peccato che se lo fai realmente ti spiaccichi, perché invece zio Paperone riusciva a nuotare tra le monete. No, ma non solo ti spiaccichi, cioè, volendo, ammesso in un concesso che non ti fai male. No, ti fai malissimo. Cioè, metti che è profonda questa vasca, no? Ok. Il problema è che poi tu vai giù, non puoi più tornare su. Cioè, nel senso, no, ma non riesci neanche a giù, non riesci neanche a spostare. Cioè, tu prendi giustamente, un tutto compatto, certo, è compatto. Sì, sì, è esatto. Tutto compatto, è chiaro. Però la cosa che mi piaceva tantissimo a me è queste storie. Cioè, per me il fumetto, allora, dato che io non ci ho mai avuto un grosso rapporto col fumetto, proprio in generale, l'ho detto tante volte, soprattutto quando non era colorato, cioè nel senso facevo proprio fatica a distinguere i tratti, cioè nel senso per me era complicatissimo. Però quando poi alla fine mi ci dedicavo, soprattutto le storie di Topolino, per me erano tutti... Ma tu voi pensate che cazzo di ragionamento che facevo io a 10 anni? Prima erano tutti cortometraggi potenzialmente, cioè erano tipo delle storyboard dove potenzialmente uno ci poteva girare la storia con i tuoi amici. Cioè, se tu prendevi 5-6 amici, la storia raccontata in una delle storie di Topolino, di Paperino, roba del genere, la potevi tranquillamente riprodurre, no? E dato che c'avevi già lo storyboard con l'inquadratura, era fattibile la cosa. Cioè, io pensavo a queste cose qua, ragazzi, che ci posso fare? E poi del mondo, insomma, di Paperino, Topolino, la cosa che mi ricordo tantissimo è il manuale dei giovani marmotte. Quello sì, è un quello me lo so divorato 50 milioni di volte, perché ero proprio appassionato di qua. Non so perché, poi ha detto il vero. Ah no, c'erano tante cose carine. Sì, era un manuale di utilizzo pratico, me lo ricordo, c'era anch'io, l'ho divorato perché c'erano tante cose pratiche da fare che era divertente. Mi ricordo che non l'avrei mai utilizzato, però c'era il sistema di estrarre l'acqua dalle piante se rimanevi nel deserto senza acqua praticamente. E il telefono con il filo e 2 bicchieri, cacchio, l'ho fatto lì per la prima volta. Eh sì, in effetti è vero, c'era anche quello con la corda cerata da... L'avevo fatto con la corda e funzionava lo stesso, insomma, non era alta fedeltà, ma comunque dai, andava. C'è Deborah che ci ha condiviso un videogioco su Amiga che lei ha, insomma, negli Duck anni Tales. Negli 90, dove c'era praticamente zio Paperone con la sfida con da Paperone e Cuor di Pietra, che io non conosco. No, non lo conosci, perché in realtà DuckTales è una serie americana statunitense che è nata ispirata dalle storie italiane che hanno girato il mondo, ma è ufficiale Disney americana, sulla cui però la Disney USA ci fece una serie TV a cartoni animati, ed era una storia con personaggi che erano diversi dai personaggi ai quali eravamo abituati, perché da noi il nemico di Paperone era Rocker Duck. E in realtà lì inventano questo Cuor di Pietra, che era il nemico di, come Doretta Doremi, che era la vecchia fidanzata di Paperone inventata da Karl Barks, che da noi non è mai esistita, perché da noi c'era Brigitta, che era l'eterna amante di zio Paperone. E quindi erano personaggi leggermente diversi, però le storie di DuckTales del cartone comunque erano ispirate alle avventure che erano state ideate e narrate in Italia, praticamente come genere, ecco, genere avventuroso. Da lì poi è stato tratto. C'è Giordano che ci chiede: ma i numeri dei Bassotti erano tipo 231, 232? Cioè, nel senso, sì, era 3 numeri e gli altri 3 231312 o così. Poi erano conseguenziali, sì, tipo. Sì, sì, sì, è 17 qualcosa, se non me li ricordo, comunque sì. Tranne il nonno che invece c'era scritto Grazia, perché ormai era talmente vecchio che non andava più in prigione, è stato graziato. Infatti lo dice Gianluca questo, cioè il nonno sì, c'era scritto Grazia, sì. Io manco sapevo c'era il nonno, figurate. Sì, nonno Bassotto era il capo dei Bassotti nelle storie di zio Paperone. Anche lì c'era tutto il filone dei Bassotti, come tutte le, che erano un po' Willy Coyote i Bassotti, cioè facevano, sì, delle invenzioni pazzesche per espugnare il deposito e poi non ci riuscivano mai. Come perché... Dick Dastardly, no? Chi era quello che aveva il cane che rideva di Audi. Sì, Dick Dastardly. Dick Dastardly che era, sì, cattivone, sì. Ma alla fine niente, non ce la faceva mai. Allora, sì, c'è Michela che ricorda sta cosa di nonna Pavera e della torta messa sulla finestra. Sapete che ce l'ho pure io sto ricordo del fatto delle torte sulla finestra. Che sì, poi le torte erano tutte uguali, poi cioè. La crostata, quella che per era, noi era in realtà la torta di mele, per noi era crostata, in realtà era, sì, molto torta americana, sì, sì, sì, era poi, ma poi proprio la forma tipica, no, di quelle di quelle torte là messe sulla finestra. Poi nonna Papera, a me non so perché mi ricorda il capitano Janeway, però questa è un'altra storia. Sai che in effetti è vero, adesso come ci fai pensare? Nonna Papera e capitano Janeway, ci sta. Nonna Papera è la sorella di zio Paperone. Ecco, giusto. Invece no, come storie, allora io l'ultimo Topolino l'ho letto 40 anni fa, non ho più memoria di storie, di niente, davvero, non mi ricordo, ci ho pensato a dire la verità, ma non mi ricordo nessuna storia che mi abbia colpito, anche perché Topolino è stato per me il fumetto che ho letto quando ero bambino, ma proprio bambino piccolo, poi dopo ho letto altre cose, quindi... Mi ricordo così un po', mi ricordo più i personaggi, cioè quelli che preferivo e quelli che invece non, che anche se, cioè che non leggevo neanche le storie se c'era quel personaggio, lo saltavo proprio. Non ero uno di quelli che leggeva tutto il fumetto indipendentemente dalla, per esempio, se c'era Topolino non lo leggevo proprio, lo saltavo. E invece il personaggio ovviamente che mi piaceva di più, non so, credo che sia così anche un po' per tutti gli italiani, forse il Paperinic, a me tutte le storie con Paperinic erano da leggere. Paperoga, Super Pippo, Pippo, Paperino sono i personaggi che per me sono quelli che più rappresentano il fumetto, mentre Topolino proprio non mi diceva niente, mi dava fastidio. Io invece c'ho una domanda tecnica, ma è venuta in mente, questa forse voi sapete, ma Paperino e Topolino vivevano nello stesso universo? Nello stesso universo, sì, ma in due città diverse. Vabbè, che erano città diverse è chiaro, però dico, comunque... Sì, sì, e si incontravano anche spesso. Si sono incontrati? Ok. Sì, sì, sì, sì, sì. Poi anche Topesio e Gamba di Legno erano due cose che quando c'erano non saltavano. Topesio è inventato in Italia, se non mi ricordo male, mentre Gamba di Legno no, vabbè, classico nemico nato insieme a Topolino proprio nel primo film di Topolino. Ecco, mentre invece tu riconoscevi i disegnatori, sì, di Topolino, io invece assolutamente no, sicuramente avrò letto, no, manco io, avrò letto sicuramente episodi fatti da uno, fatto dall'altro, eccetera, mentre invece riconoscevo, e non c'entra niente con la Disney e Topolino, i cartoni animati di Tom e Jerry, che a volte erano fatti, grandi, in un modo, e quelli si vedevano tantissimo che erano fatti da due mani diverse. Quelli... Più di due mani ce ne sono state, ma anche lì sì, ovvio, c'erano quelli di Tex Avery, insomma, ce ne sono stati tanti. Però erano proprio diversi tanto. E Topolino invece faccio fatica a vedere questa differenza. Se ci pensi, Tom e Jerry è una di quelle cose che... chilometro, poi ovviamente... Tom e Jerry è una di quelle cose che è andata sparendo proprio completamente, è una cosa peccata. Tom e Jerry, dai, Tom e Jerry erano fighi, io ero una... Ah, sì, sì, sì, beh, tanti cartoni della Warner Bros. Ma pure Gatto Silvestro, se c'è una cosa che stava andando un po' fuori rotta, no, però, cioè, Gatto Silvestro, Titti, cioè, sta roba qua, come fai a non... Cioè, tu mi fai il film d'animazione su Scooby-Doo e non mi fai Gatto Silvestro, cioè, boh, no, non capisco, scusate. Devi dirli a quello del marketing. Esatto, che è tutto marketing. Vabbè, comunque Paperini, che è un personaggio italiano, è nato nel 69, ma erano tutti belli gli episodi, cioè le storie era nato, come belle, ho detto, sull'idea di Diabolik, degli eroi neri del periodo italiano degli anni 60, e è stata fatta da Guido Martina e aspetta, ci avevo scritto, sì, Elisa Penna, che era la caporedattrice dell'epoca di Topolino, che diede l'idea appunto a Guido Martina di creare un personaggio simile a Diabolik, e lui fece Paperinic. Poi c'era che, come si chiamava quello con... sono usciti anche dei film italiani stupidi con questi personaggi che finivano con Dorellic, ecco, c'era. Sì, sì, Dorellic. Ah, Madonna, che strozzante. Di Dorelli, che sì, perché Diabolik aveva avuto talmente tanto successo che ovviamente poi era nato di tutto, no? Di più. C'era anche Satanic, la versione. che mai ricordato. C'era pure Cattivic, che c'entra niente. Però, e Cattivic, no, no, sempre, fa parte sempre di quella. Cattivic ovviamente era comico, però era di buon. Era forte, Cattivi che era forte, dai. Comunque sì, c'è da dire una cosa sola su Paperini, che nasce così, però poi in realtà viene rilanciato alla fine degli anni 90, dove diventa più simile a Batman, viene ricostruito insomma il personaggio e diventa qualcosa di, negli anni si trasforma, cioè nasce come idea di ispirata da Diabolik eccetera, ma poi diventa più un supereroe, quindi alla fine diventa più una specie di Batman, anche per farlo più adatto ai bambini magari, no? Sì, sicuramente. Tra l'altro, infatti, Vincent Valentine all'inizio lo diceva, cioè nel senso, due parole per da dire insomma su Paperinic, lui ha detto: Batman, scansate. Sì, esatto. Comunque, vabbè, in generale, le storie che non ricordo, ma che leggevo con più interesse, che mi piacevano di più, erano sempre quelle avventurose, dove l'avventura era Paperone che andava a trovare la cosa sperduta da sì, qualche parte, dove c'era. Sì, quelle mi piacevano pure a me, è vero. Sì, dove c'era Paperoga con le tabelle. Quelle più Indiana Jones, diciamo. Esatto, sì. Tutte le robe un po' avventurose erano quelle che poi gli anni '80 sono stati quelli del, insomma, del genere avventuroso, cioè sì, grande sì, rinascita. Topolino erano tutte storie di casa, di sì, oppure di lui che, oppure lui che faceva, che faceva il poliziotto, faceva l'investigatore, aiutava le indagini, che faceva, sì, non mi ricordo, me lo ricordo poco Topolino. Topolino aveva le storie gialle, cioè si è specializzato poi a diventare detective alla fine. Io mi ricordo che c'erano alcuni episodi che c'erano pure le pistole, cioè nel senso, tranquillamente. Sì era il giallo, il genere giallo, esatto, era di Topolino, esatto, alla fine diventa così, cioè il genere dove c'era il ladro, perché era derivato dal fatto che c'era Gamba di Legno, oppure Macchia Nera, uno macchia dei classici nemici di Topolino, la Macchia Nera, questo ladro che si vestiva tutto di nero e lasciava la macchia nera quando faceva un colpo, no? E lui doveva risolvere il caso, quindi c'era tutta la parte un po' tra Sherlock Holmes ma anche i classici, non so, l'ispettore Colombo, Derrick, insomma tutte quelle storie lì in versione bambini ovviamente, quindi. Ma anche lì di Topolino, che anche io, come ti ho detto, preferivo di molto le storie di Paperino, però le leggevo tutte, comprese quelle di Topolino, e devo dire che c'erano alcune storie di Topolino che invece erano fatte bene, erano particolarmente belle da leggere. Ovviamente nell'insieme ho sempre preferito le storie di sì, infatti Paperi. Deborah in chat dice che i disegnatori o tutti quelli che lavoravano alla Disney, che fa l'episodio, la parte di Topolino la devi fare tu, no? Che era come un castigo, no? No, io non voglio fare Topolino. Ma so che in alcuni casi la prendevano come una sfida, perché dicevano: adesso io faccio una storia di Paperi con Topolino che però piace. E qualcuno alla fine c'è anche riuscito. Comunque in chat Deborah dice che pure Minnie è una bella rottura di palle, ma in realtà cioè, vabbè, Paperina lo era di più, e se prendi le due non so tra quale sì. Ma poi io me la sono sempre domandato, ma poi ufficialmente Minnie e Topolino erano fidanzati? C'è il classico delle storie Disney, e che lo so, quindi sono perennemente fidanzati, non esistono le mamme e nei papà, esistono solo gli zii e i nipoti, cioè non esiste. Ah, no? Interessante questa cosa, non avevo mai considerato. Ecco, qua sono i nipoti di Paperino, non sono i figli, sono sempre i nipoti. Quindi, Paperino è nipote. Quindi non esiste la figura sgravante, diciamo così. Esatto, non esiste il fatto di dire. Vabbè, questa distorsione culturale è veramente abominevole, dai, diciamoci la verità, insomma. Comunque, vabbè, dai. Che sì, all'epoca. E questo viene scardinato poi in realtà negli anni, fine anni 90, dove per esempio Pippo ha un figlio. Però è un'idea statunitense comunque. Ah, io mi ricordo Pippo che c'era il figlio, c'era un cartone animato pure. E che poi fanno il film In viaggio con papà, col figlio di Pippo in viaggio. Cioè, è una cosa che poi è stata scardinata in anni recenti. Con Pippo, però, e diciamo, Verdone. Per tutto la Disney classica, per tutti gli anni, fino agli anni 90 inoltrati, è stata solo nipoti. Come è nato questo figlio? All'improvviso è spuntato fuori o c'è stata una storia? Sì, però c'è la storia, si ricollega. Una storia proprio dove c'era Pippo che aveva avuto una fidanzata, e quindi da lì poi dopo anni dopo questa torna e dice: questo è tuo figlio, no? Grande classico, si ritrova il figlio che non sapeva di avere. Insomma, vabbè, poi Pippo è un personaggio particolare che però nel fumetto, devo dire, era simpatico perché era un po' la versione di Paperino nelle storie di anche se era un po' il tontolone. Vabbè, però ma era chiaramente un tossicodipendente Pippo. quello come l'ha disegnato come si chiama? Pazienza aveva fatto sia Pippo e Topolino drogati. Quello, Andrea Pazienza è un mito se leggete il suo Disney. Però a parte quello, Pippo è un po' questo personaggio strambo, quindi un po' sognatore, un po' giamaicano. La prossima volta, io dico Debola, la prossima volta vieni pure dentro, se sei in enciclopedia. Si chiama Max il figlio di Pippo, dice. Sì, si chiama Max. E poi dice che c'era il gioco da tavolo di Topolino Detective. Tipo, sarà stato tipo un Cluedo probabilmente, qualcosa del genere. Sì, sicuramente c'è stato, quello non me lo ricordo, ma ci scommetto che ci sarà stato. Se a Skype è un attimo, E cosa stavo dicendo? Poi mi ha fatto perdere il filo. Stavo dicendo che Pippo invece fu molto trattato nei cartoni animati americani di Pippo, che sono stati famosissimi, dove a Pippo gli si faceva fare qualunque cosa ed erano dei cartoni animati fantastici. Bellissimi. Era Pippo alle Olimpiadi, Pippo allora, che fa questo. È proprio quello. Io avevo il filmino in pellicola di Pippo alle Olimpiadi. Meraviglioso. Tipo quando si scioglieva nel letto. Sì, quella è una serie di cartoni fantastici. Pippo all'Olimpiadi, diciamo, era figo. Ha poco a che vedere col fumetto di Topolino, cioè quelli proprio i cartoni della Disney, che è un'altra, se volete faremo la puntata sui cartoni Disney, ma quella è tutta un'altra puntata praticamente, cioè non c'entra niente con quello che stiamo trattando. No, però non ti incazzare, stai calmo, stai sereno. So che è stata una settimana stressante, però. E non è ancora finita. Se vai fuori tema, io sono cattivo, divento il professore che ti mette 4, capito? Linea rossa, fuori tema, 4. Sottolineato. Va bene. Quindi ritorniamo un attimino, perché l'argomento non è solo. Se parliamo del settimanale Topolino, oltre alle storie, in realtà ci sono altre due cose che hanno caratterizzato la storia di questo settimanale, che se vogliamo hanno poco a che vedere col fumetto di per sé stesso, ma sono molto caratterizzanti del settimanale, cioè di cosa è stato questo settimanale nella nostra storia editoriale italiana. E la prima cosa che io mi ricordo, e non so se voi ve lo ricordate, ma provo a metterlo, vediamo sulla chat se qualcuno se lo ricorda o se qualcun altro a questo ricorda, sono i gadget. Cioè Topolino già negli anni 80 è un settimanale che inizia a uscire con i gadget allegati al settimanale, che creano una specie di vendita, cioè c'era gente che lo comprava solo per quello e andava esaurito in brevissimo tempo, roba che se tu non lo prenotavi la settimana per la settimana dopo, già la settimana dopo non riuscivi a trovare il numero e non lo trovavi perché c'era il secondo pezzo del gadget. Tra i mitici gadget che sono usciti vi ricordo il deposito di Zio Paperone, radio, il radio deposito di Zio Paperone. Voi ve lo ricordate questo? No. Niente, proprio zero, completamente. Va bene, ragazzi, siamo proprio su un altro radiodeposito. Il radiodeposito di zio Paperone fu una cosa che tra i ragazzi, tra i miei amici, mi ricordo, quelli della mia età, era una roba incredibile. C'è il radiodeposito di zio Paperone, tutti a comprare Topolino, con Fumetto, che c'erano tutti i pezzi. Ogni settimana usciva un pezzo e tu devi costruire il deposito con la radio dentro. Una di Topolino. Ma quella della Biburago che è uscita come giocattolo o dici no, a pezzi? Cazzo? Ah, sì. Pezzi, sì, sì, vedi, quello era uno dei gadget, l'auto di Paperino, la 313. Poi è uscito il walkie talkie di Topolino, quello fu una roba incredibile. Quello me lo ricordo, quello me lo ricordo. Ah, vedi che te lo ricordi, a puntate ogni settimana usciva un pezzo e alla fine ti costruivi il walkie talkie. Sì, sì, me lo ricordo. Tutti impazziti per il walkie talkie di Topolino, la macchina fotografica. Pure quella mi ricordo, sì. A pezzi. Quella col flash grosso. Non aveva flash. Che mi come forma sopra, tipo che sembrava l'orecchio di Topolino, no? Aveva le orecchie di Topolino sopra, sì, ma non aveva flash. Okay. Era fatta a forma di Topolino, era la macchina fotografica, ci mettevi il rullino. No, e anche quella era le cupole dei flash che avevano le macchine fotografiche anni 50, no? Che avevano, esatto, quella cupola sopra. Anche quella è uscita a puntate nei numeri di Topolino. Non so se è stato il primo settimanale a fare il gadget, ma di sicuro all'epoca, negli anni 80, è stata una roba incredibile. Veramente io mi ricordo che dovevi andare in edicola e prenotare e dire mi tenga via la copia settimana prossima, perché sennò tu andavi e nel giro di 3 secondi era esaurito e tu non avevi il secondo pezzo del kit di quello che dovevi comprare, per dire. Vabbè, comunque questo. Beh, di Topolino, al di là dei gadget, che insomma non so se è stata la prima rivista a farlo, devo dire la verità, però comunque è una che almeno per i ragazzi ha portato, insomma, diciamo, questo tipo di cosa. E però ecco una cosa che secondo me puoi ricordare, in generale forse l'abbiamo già fatto anche quando abbiamo già parlato dei fumetti, sono le pubblicità che stavano entrando. Sì, sì, ma questo è il terzo argomento. Ok, scusa. Tu dici più subito, bravo. Beh, vabbè, lo fai sempre tu, è una volta che lo faccio io per sbaglio, su, madonna, adesso me ne vado. No, vabbè, sì, e comunque era quella. L'altra cosa fondamentale di Topolino è che è uno specchio dei tempi, cioè se tu prendi un qualsiasi numero di questo settimanale, siccome era il settimanale più venduto, con il target ovviamente ben definito, che era quello dei ragazzi, tutte le pubblicità delle cose che noi volevamo erano su Topolino. E non so se era noi le volevamo perché era su Topolino o le cose che noi volevamo erano su Topolino. Comunque in un caso o nell'altro erano tutte su Topolino, quindi alla fine tu, se tu vai a sfogliarti un numero di Topolino di quegli anni, dalla terza di copertina alla pubblicità sul retro, alle pubblicità in mezzo, trovi tutti i tuoi desideri di quando eri piccolo. Qualsiasi giocattolo desiderato di quel momento è passato tra le pagine di Topolino, quindi esattamente come hai detto, Simone. Scusate, mi è partito l'audio. Cioè, quindi tu desideravi gli occhiali a raggi X, questo volresti dire? No, non c'era sotto Topolino. C'erano, come non c'erano? C'erano. Era su Lancio Storico. Ma c'erano pure sotto Topolino, dammi retta, fidati. Sì. No, io non me ne ricordo. Te lo dico io che ci stavano. Sei sicuro? Adesso vado a fare una ricerca, ma secondo me c'erano. Non lo so, io mi ricordo le scimmie di mare, sì, quelle me le ricordo. Quelle io non ho mai capito neanche. Le scimmie di mare viaggiavano in parallelo con gli occhiali. Io non l'ho mai viste le scimmie di mare, ma c'erano le ho viste. Erano dei piccoli gamberetti microscopici. Beh, inquietante pure questa cosa. Comunque c'erano le scimmie di mare e gli occhiali. Ma adesso vado a vedere su Google. La micro macchina fotografica per le spie, il binocolino microscopico da 007, c'erano tutte le cavolatine della Same Govi. Anzi, sapete che vi dico, adesso glielo chiedo a Skype, dato che c'è Skype. Comunque per dirvi, ho trovato l'appunto. I primi gadget con Topolino risalgono già al 1951, che venivano date delle figurine nel 51 insieme, degli occhiali 3D nel 1953. Sì, perché la moda del 3D è iniziata presto negli Stati Uniti, sì, con i cinema. Beh, in Italia però questo, occhiali 3D nel numero del 75, 25 settembre del 53, il numero italiano di Topolino, sì, occhiali 3D. Negli Stati Uniti negli anni 60, 50, 60, 53 c'era il 3D. Sì, sì, certo, il 3D c'è stato sin dall'alba dei tempi del cinema quasi. E poi francobolli, monete, modellini, giochi, rompicapi, insomma, veramente di tutto. A rompicapi sono preoccupato, ho detto calla. Rompicapo è il tipo il cubo di Rubik, ma prima del cubo. Puzzle, quelle cose lì. Comunque qua stiamo parlando dagli anni 50 agli anni 60, per dirti. Nel 65 viene come gadget viene allegato una vera farfalla essiccata adagiata su una foglia attaccata a un cartoncino. Pensa a te, quando nacqui nel 65 questo esce, quando nel 69 la collezione di monete o medaglie con i disegni Giuseppe Perego nel luglio del 69. Questo per dire che i gadget sono proprio, quindi se non è stato il primo, sicuramente tra i primissimi, le primissime riviste italiane che ha iniziato ad allegare dei gadget con la rivista. Che oggi per noi è normale, ma in quegli anni farla doveva essere un'impresa, perché l'editoria non era preparata per mettere una farfalla essiccata. chissà cosa ha dovuto fare per organizzare una roba del genere nelle edicole. Mi dispiace, ma non sono riuscito a trovare informazioni specifiche su questo argomento. Tuttavia ho trovato un articolo che potrebbe interessarti riguardo agli occhiali a raggi X pubblicizzato nelle ultime pagine dei giornali più in voga negli anni 70 e 80. Adesso vado a vedere l'articolo. Hai chiesto a ChatGPT, eccolo lì, bravo. No, non l'ho chiesto a ChatGPT, l'ho chiesto a Skype. Che poi utilizza ChatGPT. È Bing. Di Microsoft Skype. Con Bing, esatto. L'ha appena comprata, ChatGPT. Esatto. Per soli 34.000 milioni di miliardi, roba così. La macchina fotografica è uscita nel luglio dell'89, da Topo Click, che era macchina gialla con le orecchie nere da topo, come ricordi tu. Il Topo Binocolo, che poi è uscito nel 91. Il Topo Walkie, a proposito, il periscopio della cosa delle marmotte, il telescopio. Lo ricordate il periscopio? Certo, me lo ricordo, l'ho costruito. L'ho costruito anch'io. Certo, tutti noi leggevamo e poi costruivamo le cose. Il periscopio bestiale, è vero. Vabbè, e niente, ricordi che appaiono. Mentre nelle pubblicità, l'ultima di copertina era sempre quella della Biburago. Aveva sempre le macchine della Biburago come ultima di copertina. Oltretutto la Biburago per anni ha avuto i diritti per fare le macchine della Disney in versione giocata. Bellino. Una missione modellino e che erano anche molto belle. Allora, ti confermo da questo articolo che c'era anche su Topolino gli occhiali. C'è stato sicuramente il periodo in cui mi sembrava che andassero tanto per sottile, insomma, hanno ceduto anche loro al soldo. Comunque cioè, su Topolino tutti i giocattoli che noi volevamo. Infatti io Topolino spesso lo uso come riferimento per quando devo cercare degli anni di uscita di particolari console, delle prime console, anche di Pong, eccetera. Vado a cercare le pubblicità su Topolino, perché lì ho la certezza dell'anno in cui veniva venduta praticamente. Le pubblicità sulle riviste, le riviste delle... Beh, certo, quello è uno specchio dei tempi incredibile, se ci pensi, no? Cioè, nel senso, comunque, è veramente una fotografia, una macchina del tempo da quel punto di vista. Per fare qualche puntata di quando eravamo futuro, potremmo prendere un numero di Topolino, sfogliarlo e ci salterebbe fuori. Assolutamente, anche perché poi anche le storie facevano riferimento a film o a elementi comunque relativi a quel periodo lì, no? Cioè nel senso in generale. Ma poi mi ricordo che all'interno, tra una storia e l'altra, c'erano anche dei piccoli inserti, degli articoletti, delle cose, insomma. Sì, c'erano degli editoriali, c'era un po' di tutto. C'era un po' di tutto. La cosa che noti rileggendo, a me capita spesso di rileggere prima una collezione di Topolino, cioè quasi 1000 numeri io conservati. Minchia! Sì. Ma te li rileggi ogni tanto? Sì, infatti ti stavo dicendo, rileggendoli, una delle cose che fai caso adesso è l'evoluzione della lingua italiana. È incredibile. Ah, sì, se prendi dei numeri degli anni 70 in italiano che dici: ma si usavano queste parole? Sì, sì. La miseria. Ma non perché allora si usavano quelle parole, che oggi sono diventati degli celebrolisi sgrammaticati. No, ci sono proprio anche delle parole che sono completamente andate, a parte il fatto di non avere più una cultura o eccetera, ma quello è un altro paio di mani. Vabbè, poi c'è la trasformazione della lingua e l'evoluzione sociale. Cioè, certo. Noti proprio la trasformazione della lingua, vero, anche di come vengono scritte alcune parole. Beh, lo vedi su tutto, anche sulle gibri, alcuni libri. Giuoco, una delle cose, trovi se giuoco. Vabbè, allora giuoco era già arcaico negli anni Ottanta, era proprio più un... No, ma infatti ti sto dicendo nei numeri degli anni 70, 60, 70, okay. Poi trovi anche, negli anni 80 trovi altre differenze, sicuramente minori, però quando vado a prendere i numeri degli anni 60, degli anni 70, trovi delle parole che dici non si dice più così, cioè, ti rendi conto proprio che la lingua italiana è cambiata e cambia, continua a cambiare, ed è una cosa che magari non te ne accorgi nel momento in cui succede, ma certo, soltanto 10 anni dopo, 20 anni dopo. Certo, certo, sono d'accordo. Comunque, parlando di collezionismo, voglio solo fare una piccola parentesi. Io ho avuto un fratello molto appassionato di collezionismo di fumetti nel periodo degli anni 80 e raccoglieva un sacco di fumetti, tra cui anche Topolino, che ovviamente i collezionisti puntano ad avere i numeri, quelli primi, i primi numeri, i primi, sì, più vecchi, no? Quelli correnti, ok, li compri, li impacchetti e li metti lì in attesa che diventino storia. E mio fratello infatti comprava tutti i fumetti in edicola, li impacchettava senza leggerli, li archiviava lì in attesa che poi diventassero merce più valorosa. Però ero riuscito a ottenere i primi 10 numeri di Topolino e negli anni 80, oggi non so quanto sia possibile ottenerli. Saresti non ricco, ma sicuramente un bel po' di soldi li fai. Comunque, poi li ha venduti, però erano 10 rilegati tra di loro, quindi già valevano meno perché erano rilegati. Li ha fatti, sì, Srilegare da un professionista che li ha srilegati, però insomma valevano comunque meno. Però li ha avuti, ha avuto i primi 10 numeri, io li avevo letti e avevo detto potevo anche non leggerli, perché i primi 10, se li leggete, sono proprio sono il Topolino è quasi disegnato come il Topolino che vedete in bianco e nero, non proprio così, però insomma è molto, sì, molto, sì, diverso, sì, certo. Anche le storie sono proprio storielline frivole proprio. Tu stai parlando Topolino Albo, ovviamente edizione quella dell'Albo, quella io nostra. Penso quella italiana ovviamente, però dimensione è uguale a quella del Topolino, sì, l'Albo, che, l'Albo di Topolino. Io qualcosa mi ricordo che era tutto a righettine o qualcosa, una specie, mi ricordava il retro delle carte da gioco, il design che aveva dietro questo Topolino, non so perché mi ricordo sta roba adesso, non lo so. La copertina è rossa del numero uno di Topolino Albo, e c'è Topolino, sì, che... e la parte dietro mi sembra che sia tutta rigata in diagonale, tipo blu e giallo con delle righe gialle, una roba così, mi ricordavo una roba così, o bianchi con delle righe blu. Comunque questo, li ho visti, li ho maneggiati, li ho anche letti, e mio fratello ha avuto appunto più di 10 che poi ha venduto, sicuramente una cifra interessante all'epoca che oggi magari sarebbe diventato, adesso vedo che sono sui 3.000 euro più o meno, dallo stato di tra i 3.000 e i 5.000 vedo il numero uno più o meno, solo il numero uno, lui aveva solo il 10. Sì. Poi anche gli altri avranno il loro valore, insomma. Vabbè. Comunque, sì, diciamo che non è un pezzo super rarissimo, ma è un pezzo che comunque ha un bel costo, ecco, perché comunque spenderli 3.000 al massimo lo trovi a 2.000, comunque sono un sacco di soldi. Sì. Va bene. Tu che numeri hai? Dei numeri molto, no, antichi? Io parto dalla fine degli anni 60, poco prima che nascessi, e diciamo che ho le serie complete, ce l'ho negli anni fine anni 70, primi anni 80, e arrivo con quasi tutti i numeri. Ho smesso, perché poi io Topolino lo compravo tutte le settimane, sono stato anche abbonato e li ho conservati tutti fino al 1994, e nel 94 ho smesso di prenderlo, nel 94 proprio, che avevo 24 anni, ho detto il beh, numero più vecchio che ora ti ricordi di avere, dovrei avere il numero 500. Ah, che è il numero più vecchio che ho. Beh, c'è pure la copertina, quella con la scritta 500 sopra, no? Esatto, sì, sì, quello ce l'ho. Ma tu, forse perché tu ce l'hai? Tu ce l'hai perché già li compravi? No, non credo, perché sei del 70. No, quelli, roba usata. Allora, te lo dico, il numero di 500 topolini di che anno è? Penso prima di che io nascessi, anno, vediamo, perché c'erano parecchi, sì, li compravo usati. Però non me lo dice. Vabbè, te lo cerco io mentre tu vai avanti. Topolino. No, beh, in realtà. Aspetta, ce lo dice Bing, aspetta, ce lo dice Skype. Perché 67, Skype... 67, 23 anni prima che nascessi io. 65 me lo dà. 27 giugno 1967. Il numero di 500 di Topolino è stato pubblicato il 27 giugno del 1967. Vabbè, io ce l'ho con scritto 65. No. Sai, foto. Che fo- sai che nella foto c'ha ragione lui? 27 giugno 65. Che schifo. 150 lire. 150 lire, Madonna, ragazzi, 150 lire. Che era tanto per il 65, eh? 150 lire. Ma quanto costa adesso? Costa 3.000 lire, 3.000 lire. Adesso, 5 euro? Adesso costa 2... Non lo so, cioè non lo prendo da talmente tanto. 150 lire. Però effettivamente per 65, 150 lire... Era tanto, era costoso. Vabbè, vabbè. Comunque, vabbè, dai, anno più, anno meno, siamo in quegli anni in cui tu ancora non eri nato. No, no, molti, ho molti numeri degli anni 60 che recuperavo già da piccolo. Cioè, io già da piccolo... Sì, era più facile trovarli, era facilissimo trovarli, eh. Ma esatto. Poi le condizioni non è che ti servivano nuovi, tu li prendevi anche se erano consumati. Sì, poi li trovavi... In edicola il prezzo di Topolino è 3,20 euro. 3,20 euro, vedi. Quindi bene. Se lo trasformassimo in lire sono 6.000 lire. 6.000 lire. Vabbè, però è proporzionato con gli anni che passano, l'inflazione e tutto quanto. Cioè, devi considerare, stavamo parlando degli anni 60, quindi 150 lire non erano poche poche. Cioè, no, era parecchio. Devi anche mettere il valore d'acquisto oltre al valore economico della moneta sottratta dell'inflazione, perché comunque negli anni, alla fine degli anni 60 eravamo un po' più poveri proporzionalmente, no? Quindi in generale, forse adesso siamo ritornati al livello di povertà negli anni 60, però insomma, diciamo che in generale, no? Okay, c'è un topolino del 66 che costa 120 lire. Non capisco bene, forse il 500 era un'edizione doppia. Il numero speciale, che era più grosso. Il numero speciale era più grosso, potrebbe essere, costava. Beh, d'altronde era un numero speciale. Ah, c'è quello con la farfalla. Hai visto? Eccolo lì. Quello è, il 500, è il 500 che ha la farfalla sulla foglia. Era foto. Quello? Sì. In allegato. C'è chi lo vende a 350 euro solamente. Beh, dai, ci può stare. 500. Beh, la tiratura fu molto alta, quindi non è come dire, non, si trovano. Ecco, è cioè, quello con la farfalla, per quello che costava quel pelino in più. Ecco, vedi, giustificato il prezzo. Insomma. Ah, che bello. Intanto vi do la notizia ufficiale che è appena uscito la Real Engine Editor per Fortnite. Dove dovesse venire voglia, insomma, di fare le mappe. Più che voglia è che il tempo. Io ho il Mac, per cui guarda, vado tranquillo. Real Engine va bene. Io ho la coda di video per Davide Gatti da registrare, quindi non posso fare nient'altro nella mia vita. C'hai anche da facciamo uscire pure gli mini episodi. Vabbè, da con questo non c'entra niente. No. Con tutto il resto, insomma, vabbè. Quindi bello, vabbè. Topolino, bello. Sì. Beh, posso dire solo che Topolino, secondo me, ha rappresentato un momento importante, secondo me, nella crescita di generazioni nel nostro paese. E come hai detto te, ha fotografato l'Italia nei periodi in cui è uscito. Insomma, questo sicuramente. Sì, sicuramente sì. E quindi insomma mi sembrava giusto dedicargli una puntata al fumetto Topolino, non a Topolino e non alla Disney, ecco, mettiamolo così. Devo dire che da quando è diventato Disney Italia ufficiale non l'ho più preso, quindi preferivo Mondadori. Rispondo ancora a una domanda di Carlo alla quale tu hai risposto all'inizio di tutto, cioè quando leggevamo Topolino. Volevo ricordare che tutti noi leggevamo Topolino al mare, dal parrucchiere, in sala d'attesa, dal dottore, dal dentista. Tu arrivavi, c'erano i Novella 2000 per la mamma, e noi avevamo il Topolino, e quando eravamo dal dottore, noi dal dottore, se vi ricordate negli anni 70-80, quando si andava dal dottore si entrava in una stanza con 200 persone, entravi diciamo le 2 e uscivi alle 7 per ora che toccava a te, e prendevi tutte le malattie infettive, a parte prendevi le malattie, però andare dal dottore, io ho questi ricordi, era ore, ore, ore, cioè un sacco. Tu entravi, non c'erano i numerini, c'era sempre chi è l'ultimo, io. Poi quando arrivai, ma non eri tu, no, ero io. Si litigava sempre, un casino. E poi c'era veramente sta stanzina che generalmente era un appartamento diventato un sì, sì. Si chiama uno studio medico. Sì, una cosa dove c'è il dottore, e con due o tre sedie, tutti in piedi, di un casino. Il dottore della mutua. Vabbè, ma ancora oggi è così, ragazzi. Non è che se no, vai dal dottore non esistono più i dottori della muta. Io quando adesso ci sono gli studi. Io ce l'ho il dottore da Udo, scusate, perché non c'è esiste vabbè più? Anche se ci sono non li vedi più, perché ormai io lo vedo, io c'ho il mio medico della mutua, che almeno una volta al mese ci vado tranquillamente. E comunque non ci sono più i topolini e le robe da leggere. No, che a Roma è ancora diverso. So, qua da noi ormai è tutto elettronico, non lo vedo mai. Ma anche io, se devo andare a fare delle visite all'ospedale e tutto quanto, è tutto elettronico. Però in generale, è anche lui, se io le chiamo, mi fanno tutte le ricette via mail o le mandano direttamente alle farmacie. Quello che dico è che comunque lo studio medico dove c'è il medico da mutua, al quale andare a parlare, magari comunque poterci parlare per capire se c'hai una cosa, lui poi ti indirizza roba, esiste ancora, cioè, esiste, ti fai la coda. Io però non lo faccio più da 3-4 anni la coda. Io lo faccio perché lui comunque alla fine non, ecco, l'unica cosa è che il nostro si organizza col fatto che tu lo chiami, gli dici guarda posso venire domani, lui dice guarda meglio dopo domani all'ora X, e quindi ti organizzi così, cioè nel senso in generale, esatto. Però se tu c'hai un'emergenza prima di andare, l'emergenza prima di andare magari insomma all'ospedale, al pronto soccorso, roba del genere, vai lui ti fa passare insomma alla fine. Comunque Carlo, usciva il sabato o la domenica Topolino? No, usciva durante la settimana. Ah, vabbè. Il giovedì credo, perché ricordo il martedì. Per me il topolino era andare, uscire col papà. Io non uscivo mai con mio padre, non, era l'occasione per uscire col papà, ad andare in edicola a prendere, lui prendeva il giornale, la sua rivista di Hi-Fi, Le Ore, Novella 2000. Usciva il mercoledì, ci dice Gianluca. Mercoledì. Quattro ruote così, e io topolino, e quindi si andava tutti in edicola, si comprava queste robe, si usciva col mazzo di giornali, di robe, quando l'edicola ancora era un posto che si frequentava. E quindi io arrivavo a casa col mio topolino, lui con le sue riviste, si smistava Novella 2000 mia mamma, lui si leggeva la sua. Pure Walter Sbano prima ha scritto sto ricordo, che lui comunque era felice quando il padre tornava a casa che gli portava il numero di topolino. In generale sì, era. Sì, oppure lo chiedeva, io vado in edicola, cosa devo prendere? Per me topolino. Topolino, sì. Esatto. Io invece per me topolino era già qualcosa della mia indipendenza, perché mi te ricordo che mi davano le 200 lire e mi dicevano vai in edicola a comprare topolino. Quindi, certo. Io andavo da solo e mi compravo il mio topolino, e poi spesso lì vedevo magari i numeri vecchi, e quindi parte della paghetta la spendevo in vecchi numeri di topolino. Poi, no? Che costavano magari la metà o meno. Costavano 50 lire o 100 lire. Sì, mi ricordo che quando andavo le prime volte io costava 200 lire topolino, quindi non so che anno fosse. Vabbè. 80. Ma in generale mi avete fatto riflettere che, mo, al di là di questa cosa di Topolino, le riviste di un'epoca che adesso non sai bene se esistono ancora, tipo che ne so, il Guerin Sportivo, no? Cioè le riviste sportive che c'erano una volta, no? Che uscivano una volta al mese, e tu ce le leggevi praticamente tutte quante le notizie di quello che succedeva, che non vedevi in televisione, perché lo sport, il calcio stesso, non era poi così, c'è abbondante in televisione, per vedete le partite le trasmettevano negli anni 80 in televisione. Vabbè, in generale qualunque cosa non era abbondante, non è che esatto, sai, sì. Ti ricordi che i canali poi sono arrivati, che noi eravamo già grandi, direi. Sì, qua. Vabbè, già negli anni 80 c'erano, però in generale comunque non esisteva proprio sta cosa. Cioè io mi ricordo che a volte la domenica trasmetteva nel secondo tempo della partita X piuttosto che Y. Poi parli di calcio, poi tutti gli altri sport non esistevano proprio in televisione. Tra l'altro a meno che non erano le Olimpiadi, che bene o male venivano più o meno insomma trasmesse più o meno. Però se uno era appassionato di tennis, doveva guardarsi il guru istruttivo, se era appassionato di pallacanestro. Sì, sì, no, pallacanestro e pallavolo negli anni 80 a malapena esistevano, cioè negli anni 70 manco te lo dico. Il tennis tanto, perché ogni tanto, che ne so, i grandi eventi, gli internazionali, oppure se l'Italia andava nella finale di Coppa Davis, queste cose qui, allora capitava, insomma, che si vedevano ogni tanto qualche cosa. Però le partite di calcio, per esempio, c'era sta cosa che o si trasmetteva un secondo tempo a caso da una partita a caso, oppure se c'era un problema di ordine pubblico, quindi al contrario di quello che succedeva e che è successo poi successivamente, ossia magari c'era il derby Roma-Lazio, allora all'interno del territorio di Roma trasmettevano, o nel Lazio trasmettevano la partita per non far andare troppa gente allo stadio, perché poi una volta non c'era neanche il limite, no, della gente che poteva entrare allo stadio, spiavano, entravano, cioè pagavano i biglietti, entravano, non c'era il limite dei biglietti. Oggi invece i posti sono tutti numerati, vabbè, è cambiato proprio tutto il mondo, sono cose completamente diverse. Ci sta. E nelle riviste, secondo me, nel tipo di riviste che c'erano una volta, in qualche maniera alcune cose si sono estinte, proprio perché è estinto la necessità di quel tipo di informazione lì, o sì, di quel tipo di intrattenimento lì. Sorrisi, no? Cioè, canzoni, ci sarà pure ancora oggi, non... oggi i fumetti stessi sono più per appassionati, perché comunque c'hai la passione d'avere l'oggetto fumetto, ma in realtà oggettivamente no. Beh, allora esce ancora anche Topolino, escono, però hanno un audience molto molto più limitata rispetto a quella che avevano ai nostri tempi. Sarà anche un prodotto molto più economico e fatto magari un po' peggio, se vogliamo, fatto un po' ma più quello no, devo dire la verità. E Topolino, allora, io non lo prendo più perché ovviamente non c'è non più, non avresti quella, tempo di leggerlo, a parte del tempo non ce l'ho, però devo dire che attira sempre, è ancora un po' una fucina di autori che si fanno le ossa, anche perché volendo, essendo scesa tutta l'editoria, comunque Topolino meno, ma mantiene ancora i suoi buoni livelli di vendita, tra virgolette, in una certa fascia di età. Per esempio, negli ultimi anni c'è stato Sio che ha scritto le storie per Topolino. Ha fatto delle storie per Topolino. Ah, beh, sempre la solita sempre la solita storia degli influencer, no? Nel senso che non so quanto. Non tanto influencer. Cioè, lui è bravo. A me piace Sio, però oggettivamente lo stile di Sio non c'entra un cazzo a Topolino. Cioè, nel senso. E invece devo dirti la verità: che facendo la storia su Topolino, le ho prese le storie di Sio. Lui si è ispirato molto probabilmente alle storie che piacevano a lui da piccolo. Ha fatto delle storie di Zio Paperone bellissime, che mi hanno ricordato le storie che leggevo io di Zio Paperone negli anni, proprio una storia avventurosa alla Zio Paperone. Adesso aspetta che trovo una storia di Sio, di Zio Paperone, ti dico come si chiama. Zio Paperone, storia di Sio, storia di... ce lo diranno in live, chiedilo a Bing. Allora, adesso non mi ricordo il nome, la monetona, eccola qui, Zio Paperone, la monetona nella terra dei Talpuri. Ed è proprio la classica avventura di Zio Paperone che scopre che nella terra dei Talpuri c'è la moneta più grande del mondo, la monetona, no? E quindi c'è l'avventura di loro che vanno come al solito con Paperino qui con qua eccetera a recuperare alla ricerca di questa monetona gigante. È una storia scritta da Sio, ma è una storia scritta nello stile delle storie che mi piacevano e probabilmente piacevano anche a Sio negli anni 70-80. Quindi devo dire che non è che ha usato ovviamente per Disney e per Topolino lo stile di Sio che ha nei suoi fumetti. Comunque Sio lo sai, lo stimi anche tu, quindi è bravo, quindi assolutamente lo stimo, sa scrivere. Ah no, ma io non volevo criticare lui in generale. Diciamo insomma che no, ma per dirti, non ci sono stati influencer che scrivono le storie di Topolino, cioè c'è stato Sio che ha scritto la storia di Topolino perché è un autore di fumetti italiano, sì, adesso, sì, beh, lui, bravo, famoso, e quindi lui avrebbe voluto fare il fumettista, insomma. Tra l'altro io c'ho una mia carissima amica uscita dalla scuola Holden di Baricco, che lei ha lavorato per un periodo di tempo come sceneggiatrice all'interno di Disney Italia, e dice che è un ambiente tossico dal quale è scappata, insomma. Può essere sicuramente. Immagino, non so. Penso che come tutte le cose sarà, non sarà un ambiente semplice, anzi, poi con una multinazionale come la Disney dietro, capisci? No, infatti è più quello. Va bene, io direi che abbiamo ricordato. Poi adesso facciamo fare a Carlo una conclusione, poi magari pure a Davide, insomma, se è. Ma vi avviso, insomma, che ci saranno delle puntate interessanti nei prossimi settimane, perché comunque ce n'è una che ce l'avevamo in canna da tanto tempo, più altre che magari le sto anche un po' organizzando io, quindi vedrete che torneremo a parlare. Mi piacerebbe anche ritornare nell'ambito dei giocattoli prima o poi, perché abbiamo affrontato questo tema, ma secondo me poi riascoltando, e poi quando magari li ascoltano anche le persone, ti vengono in mente cose che magari non hai detto e che però poi te le ricordi, quindi se te le ricordi vuol dire che in qualche maniera ci hanno avuto un valore, no? Però vabbè, questo è tutta roba di cui parleremo più in là, e poi non so, Davide pure prima o poi partirà anche lui una puntata. La critica velata, no, non è la critica, è chiaro che lui in questo momento è più concentrato su un discorso piuttosto che un altro, ci sta, vuol dire, no? Nel senso, vabbè, comunque vedremo, tanto materiale voi ne avete già tanto, quindi non c'è problema. Comunque sì. Si può anche fare un episodio di raccolta di tante cose, non un solo argomento, ma di tanti argomenti che abbiamo magari anche dimenticato, sì, dei pezzi di questo, un pezzo di quell'altro, e facciamo un episodio di riattacchiamo un po' tutto quello che ci siamo dimenticati. Sì, una sorta di ci siamo dimenticati, probabilmente anche la posta, perché secondo me c'era qualcosa da dire che io non mi ricordo più e che non so se sì, no, non l'ho controllata, ma la ricontrollerò, anche perché poi in realtà ci sono stati, abbiamo fatto un post molto tempo fa, forse qualche mese fa, sul che argomenti ci suggerite, sono arrivate comunque delle indicazioni, alcune cose mi hanno anche diciamo stimolato. Poi vedrete, insomma, piano piano cercheremo di riportare. È vero pure che chiaramente se il programma è un po' latitato, giustamente poi latitano anche, voglio dire, i commenti delle persone, ma ci impegniamo, ragazzi. Purtroppo veramente non è facile, perché di tanti programmi che facciamo, di tante cose che stiamo facendo, è ovvio che purtroppo, no purtroppo, giustamente ci sono delle priorità, che so, delle priorità assolute, quindi il lavoro, roba del genere, magari delle priorità di altri progetti che magari in qualche maniera prendono il sopravvento. Forse è anche vero che in qualche maniera in queste tre stagioni di Quando Eravamo Futuro, in qualche maniera ne abbiamo raccontate di cose. Allora a volte quando tu ti soffermi un attimo e dici vabbè, ma che altro ci abbiamo da raccontare? In realtà ci sarebbe ancora un mondo da raccontare, però è chiaro che diciamo i colpi, quelli importanti in qualche maniera, quelli che ti stimolano, che ti piace ricordare, te li sei già giocati, insomma, in qualche maniera. Quindi, sì, adesso c'è da fare una maggiore ricerca, c'è da fare, esatto, più... sì, è un po' più impegnativo, diciamo, quindi non va a prendere se Quando Eravamo Futuro, insomma, purtroppo in qualche maniera un po' zoppichicchia, però vedrete che quando torneremo, e anche nelle prossime settimane, perché comunque alcune cose io già ce l'ho mezzi organizzate, e quando torneremo con delle cose più pronte, insomma, ecco, diciamo, che vi faranno comunque piacere, quindi portate pazienza, state tranquilli, insomma. Ma sì, siamo tutti tranquilli. Certo, noi siamo sicuro siamo tranquilli. Vabbè, che loro saranno mica così affannati. Ricordiamo che aspettiamo tutti questo weekend alla Gardacon, vero Davide? 25-26. Bravissimo. E non solo, ricordatevi che se non avete niente da fare e volete offrirvi come volontari per stare lì a fare le guardie agli oggetti, ai videogiochi, in modo che non vengano né rubati né distrutti, Carlo Sant'Agostino mette a disposizione cosa? Un budget di rimborso spese. Ma mancano due giorni, speriamo che si faccia vivo qualcuno, dovremmo arrangiare. Vabbè, tu dillo che magari qualcuno che sta nella zona di Garda probabilmente potrebbe anche essere interessato a venire a dare una mano in questa maniera, e quindi alloggio, vitto e alloggio, alloggio e anche rimborso, e anche rimborso, oh, raga, cioè alla fine vi conviene pure, cioè. Su attenzione, Facebook, non è che si mangia con noi, esatto, che è un po' diverso, dici. Non è che si mangia così al ristorante da soli, dai, al prossimo evento vengo pure io, dai. Comunque, perché si magna? No, beh, soprattutto perché si magna. soprattutto, molto di più del fatto che sarà dura e saremo a Como, forse quello dopo che sia Massa Carrara. Massa Carrara, ok, Massa Carrara, va benissimo. Se Massa Carrara devi venire perché ci sarà c'è l'intervista, ok, sì sì, ok, sì sì, sappiamo. Bene, io ringrazio e saluto Davide Gatti, Survival Hacking. Sì, allora io intanto faccio un annuncio, anche se non c'entra niente con Runtime, ma comunque è sempre una buona causa. Io venerdì sarò in live con, l'ho già detto più volte, per una iniziativa di che si chiama filoconnesso.it, dove potete andare a vedere il programma. È un contest dove dei ragazzi presentano i loro progetti fatti con Arduino, cose elettroniche insomma, e saremo io, Piera Isa, Greta Galli e altri, che faremo dei pseudo giudici per questa piccola manifestazione così tra amici tecnologici, per cui venite a trovare anche. Ah, quindi è tipo un talent show. Ma il talent dei makers, esatto, ragazzi di giovani che inventano qualcosa, e noi saremo lì a vedere che cosa si inventano, perché il giorno dopo sarebbe l'Arduino Day. Adesso l'Arduino non vogliamo stare qua a spiegare cos'è, ma dovreste saperlo già tutti, è ufficiale, per cui chi vince quel contest venerdì dovrebbe partecipare con questo progetto anche al vero Arduino Day, che sarà il giorno successivo, che è una manifestazione internazionale, una cosa un po' più grossa. Questa qua è una manifestazione amatoriale fatta in casa da ragazzini così, e si vincono ricchi premi, cioè si vince un Arduino. Che culo, non vedo l'ora di non partecipare, insomma. Ma come puoi non fare a meno di avere un Arduino? Io non so, io guarda, l'Arduino non dormi tu per colpa di questo. Infatti è vero, non dormo, ma per il nuovo topolino. E dopo di questa vado a dormire. Ringraziamo e salutiamo anche Carlo Sant'Agostino. Ciao Carlo. Buonanotte. Quindi vi troveranno al Gardacon durante questo weekend. Gardacon, Montichiari, Brescia, centro Fiera del Garda, questo weekend, che sono i giorni 25-26, dove troverete un sacco di retrocomputing, bella gente, e si mangia. La solita roba. Insomma. Sì, sì. E tanta. Tanta sì, game. Anche quella, perché c'è il cosplay, quindi sì. Ah beh, quello non manca mai, diciamo, insomma. Va bene ragazzi, io vi saluto, vi do la buonanotte anche a voi due, e vi lascio a voi ascoltatori con il brano della settimana. Ciao a tutti. Ciao. Okay.